Più per te. Ah, va bene, io non c'entro. Vale. Andiamo. Allora, correva l'anno 1709 quando Ludovico Antonio Muratori pubblicava a Padova gli Anecdota Greca, richiamandosi in modo esplicito nel titolo e nelle righe iniziali della prefazio ai suoi due primi tomi di Anecdota Latina, apparsi nel 1697 e nel 1698. Il volume era dedicato per oltre due terzi a dei brevi componimenti di Gregorio Nazianzeno, inediti come voleva il titolo, anche se con qualche eccezione che avremo modo di vedere. Erano passati circa due secoli dall'edizione Aldina, prima in assoluto per i carmi del padre Cappadoce, ed uno da quella di Federico Morelli. In quest'ultima, che ebbe nel 600 più di una ristampa, era confluito il lavoro di tutti gli editori precedenti. Oltre al Manuzio vanno ricordati Langus, Sambucus, Leonclaius e Billius. È di essa che il Muratori si serve nella fase iniziale del lavoro per controllare quali dei carmi da lui scoperti siano ancora inediti. Giova precisarlo perché egli cita sempre l'esemplare a stampa utilizzato per tale scopo come edizione billiana, incorrendo in un errore nel quale cadranno anche altri pure in tempi recenti. L'opera più completa, dedicata dal Billius al Nazianzeno, quella uscita postuma nel 1583, non poteva servire per un confronto del genere, in quanto presenta la traduzione latina di tutte le poesie di Gregorio fino allora edite, ma il testo greco di un numero molto ridotto di esse. Chi volesse obiettare che al testo greco si poteva risalire dalla versione latina dovrà arrendersi almeno davanti al fatto che i numeri delle pagine citate talvolta dal Muratori corrispondono all'edizione del Morel e non a quella del De Villiers. Cerchiamo ora di ricostruire come si è venuta formando la sezione degli Anecdota Greca relativa ai carmi del Nazianzeno, sulla scorta delle notizie fornite nella prefazio e nelle note ai singoli carmi e di altri vari elementi ricavabili da fonti diverse. Può essere interessante non solo per la storia del testo di Gregorio, ma anche come esempio di ciò che erano, almeno in certi ambienti, filologia, erudizione e rapporti tra letterati alla fine del secolo XVII e dagli inizi del successivo. Molte altre opere del Muratori e dei suoi contemporanei hanno infatti visto la luce dopo una gestazione consimile. Il 1 febbraio del 1695 il Muratori si trasferisce da Modena a Milano per occupare un posto di bibliotecario presso l'Ambrosiana. Non ha ancora compiuto 23 anni, ha conseguito la laurea in legge e si è già messo in luce componendo anche, nel 1693, il breve opuscoletto De Graece Linguae Usu et Praestantia, che rivela al tempo stesso l'interesse del giovane per questa lingua e l'influenza su di lui esercitata in tal senso dagli insegnamenti dell'abate Bacchini. A Milano, dove stringe varie amicizie, il Muratori ha facile accesso, in virtù del lavoro chiamato a svolgere, ai manoscritti della Biblioteca Ambrosiana. Gli capita tra le mani un antico esemplare dei Carmi di Gregorio, lo confronta con l'edizione morelliana e si accorge che molte poesie sono inedite. Negli Anecdota Greca non viene specificata la segnatura del codice in oggetto, ma il contenuto, la successione dei carmi, le lezioni citate, le lacune ed ogni altro particolare di cui è data notizia corrispondono perfettamente all'attuale Ambrosianus Grecus 433 AM, già allora vistosamente mutilo e con i fogli superstiti in ordine sconvolto rispetto a quello originario, come si può facilmente vincere confrontandone la cogliutia con quella dell'edizione. AM è datato dal Muratori a prima del 1000. In realtà si tratta di due codici relegati in uno. La seconda sezione, quella con i carmi di Gregorio, è dell'undicesimo. Solo la prima, che non ci interessa, risale al nono. Successivamente il Muratori apprende che erano stati pubblicati da poco vari carmi inediti del Nazianzeno. Cerca di verificare la notizia e di sapere se sono gli stessi da lui scoperti. In data 6 marzo 1697, sono appena passati due anni da quando è giunta a Milano, scrive infatti ad Antonio Magliabecchi: «In un codice antico della nostra biblioteca ci ha molti versi di San Gregorio Nazianzeno. Li ho conferiti con l'edizione di Parigi e molte centinaia ve ne sono che inediti mi sembrano. Mi disse pertanto il detto padre, si tratta del padre Massimiliano Dezza, che per avviso di lei ne erano stati pubblicati parecchi, non a molto, e che mi guardassi di non gettar la fatica. Io perciò supplico a lei perché m'onori di questa notizia, seppur sarà vera. E se l'avesse quest'ultima edizione, non me trovata dal Dupin e dal Cave, sono in proporzioni ciclopiche il paste nell'altaner dei nostri giorni, mi faccia l'onore di esaminarla. Se non fossero tali versi editi come bramerei, mi preparo questa estate a farne la versione in latino, per poscia donarli al pubblico. La risposta giunge quasi subito ed il muratore viene a conoscenza degli Asmata Cucneia pubblicati l'anno precedente dal Tollius. Il 27 marzo, in una lettera per certi aspetti enigmatica, caratterizzata da un giudizio pesante su Francesco Redi, egli ringrazia il Magliabechi dell'avviso doloroso e gli chiede di procurare una notizia dei consaputi versi di San Gregorio Nazianzeno stampati dal Toglio. È il carteggio di questo periodo tra il giovane bibliotecario dell'Ambrosiana ed il letterato fiorentino che ci permette di seguire l'evoluzione del lavoro. Il 12 giugno il Muratori scrive di aver saputo, settimane sono, da Ottone Menche, che i carmi pubblicati dal Tollius erano diversi da quelli contenuti nel manoscritto ambrosiano. Il 3 luglio, pur manifestando l'intendimento di procurarsi l'edizione per fare un confronto prima di procedere oltre, dichiara di aver già copiato e ancor tradotto i versi del Nazianzeno presenti in AM ed assenti nell'edizione morelliana, notizia confermata da una sua epistola al Menche del 13 agosto. Particolarmente interessanti sono poi tre lettere successive, sempre indirizzate al Magliabechi, delle quali vorrei leggere dei brevissimi stralci. 2 ottobre 1697. Oltre il pericolo che mi sovrasta dal consaputo signor olandese, si tratta del Tollius, intorno ai versi del Nazianzeno, ho in questo ordinario avviso dal padre Bernardo di Montfaucon della congregazione di San Mauro di Parigi, che un certo signor Boivin in quella città ha molti poemi di detto santo non ancora usciti in luce e che gli prepara per le stampe. Ond'io vo temendo che la molta fatica sinora da me fatta sarà in tutto inutile. 19 febbraio 1698. Dal chiarissimo padre Bernardo di Montfaucon, a lui si era nel frattempo rivolto il Muratori trasmettendogli una lista dei carmi che aveva trascritto perché facesse un confronto e vedesse se erano gli stessi scoperti dal Boivin, dal chiarissimo padre Bernardo di Montfaucon mi si offrono parecchi versi greci del Nazianzeno sinora inediti, che sono in mano di un signore Boivin, quali aggiungerei agli altri da me preparati di quel gran santo per le stampe. Se perciò di là tornasse alcuno, potrebbe seco portarli. 14 maggio 1698, dal signor Boivinius da Parigi, ho ricevuto altri versi di San Gregorio Nazianzeno sinora inediti e da lui cavati dalla Regia Biblioteca, onde potrò pensar di farne col tempo l'edizione pensata, riservandomi alla prossima villeggiatura il portar questi ancora in latino. I tre passi citati ci testimoniano una fase importante, quella in cui Giovanni Boivin, collega del Muratori presso la Bibliothèque Royale di Parigi, nell'arco di pochi mesi, da temuto concorrente, diventa prezioso collaboratore. Egli non si limita a trasmettere al Muratori i versi inediti che aveva scoperto, ma concorre all'esegesi di essi, fornendo la versione latina di qualche carme, trascrivendo alcune glosse esplicative presenti nei manoscritti da lui collazionati e proponendo delle congetture. Il Muratori non mancherà di segnalare puntualmente nella prefazio agli Anecdota Greca e, di volta in volta nelle singole note, ogni contributo del Boivin, mantenendo quanto aveva promesso in una lettera del 25 febbraio 1698 a Bernardo di Montfaucon, che abbiamo appena visto essere stato intermediario tra i due. In un passo di tale lettera, il Muratori dichiara che il Boivin era in possesso di 304 versi inediti e lui di 700. Come è esplicitato nella prefazio agli Anecdota Greca, i manoscritti collazionati dal francese sono i Regi 2891 e 2945, oggi rispettivamente Parisinus Grecus 992 PE e Parisinus Grecus 1277 A, il primo del XV secolo, il secondo del XIII. Esaminando i testimoni suddetti, possiamo vedere che dei 304 versi, 208 si trovano solo in PE, 46 solo in A e 50 in entrambi. Procedendo al medesimo controllo su AM, notiamo che il Muratori utilizza questo testimone per 694 versi, non tutti inediti come vedremo, anziché per 700. Pur con qualche perplessità derivante dall'esattezza dimostrata riguardo al numero dei versi trascritti dal Boisvent, si potrebbe tranquillamente pensare ad un errore di calcolo o ad un arrotondamento per eccesso se negli Anecdota Greca non ci fossero pure due componimenti di tre versi ciascuno, i numeri 222 e 223, corrispondenti a 2189 versi 35, 37 e 46, che il Muratori afferma trovarsi in un altro manoscritto della Biblioteca Ambrosiana, frammisti a versi già editi del Nazianzeno. L'indicazione è vaga, ma non è difficile risalire per esclusione, anche sulla base del catalogo a stampa, all'attuale Ambrosianus Graecus 807 della fine del secolo XI, regolarmente omesso nelle tabelle del Veran, nonostante contenga, per intero o parzialmente, una dozzina di poesie, quasi tutte riconducibili alle Gedichtgruppen 14 e 15. Da ciò è legittimo dedurre che questo altro esemplare sia stato utilizzato almeno prima del febbraio 98, epoca della succitata lettera a Bernardo di Montfaucon. Ma si può anche risalire più addietro ed affermare che già nell'autunno dell'anno precedente A.M. non era l'unico testimone dei Carmi di Gregorio conservato alla Biblioteca Ambrosiana cui aveva attinto il Muratori, visto che il 9 ottobre 97 egli scriveva a Giovan Battista de Miro, più avanti suo collaboratore proprio in quest'impresa, Plura Gregori Nazianzeni Carmina Antiquis Manuscriptis, usa il plurale, e Ripui. Per completezza e non del tutto a margine di questa mia esposizione, ricorderò che oltre ai due manoscritti ambrosiani di cui ho parlato, il Muratori utilizzò soltanto un terzo esemplare di questa biblioteca, contenente però la parafrasi di alcune poesie senza il testo delle medesime. Di tale parafrasi vengono pubblicati l'intera parte concernente 1.1.11 ed alcuni passi relativi ad altri componimenti. Se questo codice, che il Muratori data al XII secolo, non riveste interesse specifico ai fini del discorso odierno, credo invece possa fornire, pur non contenendo il testo, elementi forse decisivi per collocare con maggior precisione nello stemma codicum uno dei manoscritti fondamentali dei Carmi di Gregorio, un testimone contaminato, l'unico in cui una serie di poesie è accompagnata dalla stessa esegesi. Sull'argomento sarò ovviamente più preciso in altra sede. Nel maggio del 98 il Muratori ha dunque copiato e tradotto in latino i componimenti inediti del Nazianzeno trovati alla Biblioteca Ambrosiana ed ha avuto dal Boisvent quelli della Bibliothèque Royale di Parigi, che progetta di tradurre in estate, tutto in vista di un'edizione che non sembra però imminente. Nel settembre dello stesso anno, scrivendo al Magliabechi, lascia infatti trasparire il suo intendimento di dedicarsi ad un altro lavoro prima di procedere alla redazione del terzo tomo degli Anecdota. Gli inizi del 1699 vedono comunque il Muratori intento ad illustrare, il termine ricorre spesso nelle sue lettere di questo periodo, i Carmi tradotti in latino e, al tempo stesso, a trovare un editore per l'opera. A tale scopo egli si rivolge, ora in modo esplicito, ora con più diplomazia, a Corrado Janning, a Bernardo di Montfaucon, a Giovanni Boisvent, ad Antonio Magliabechi, dal quale sembra avere qualche assicurazione in proposito, a Guglielmo Bonjour. Come si può notare, si tratta quasi sempre di stranieri. Un motivo più volte ricorrente nelle lettere suddette è, del resto, quello della difficoltà a reperire in Italia una tipografia disposta ed in grado di pubblicare un testo greco. Parallelamente, il Muratori chiede una trascrizione dei versi inediti di Gregorio che si trovavano nei manoscritti della Vaticana al prefetto della biblioteca, Lorenzo Alessandro Zaccagni, il quale si fa mandare da lui l'elenco di quelli già in suo possesso ed affida poi l'incombenza ad un altro bibliotecario, il benedettino Giovan Battista de Miro. Con entrambi il Muratori era in corrispondenza da tempo. Questa fase è documentata da due epistole dello Zaccagni, dalla seconda, 30 aprile 99, è possibile dedurre che il De Miro non sarebbe potuto mettere al lavoro prima della fine di maggio. In assenza di una documentazione specifica, resta difficile dire quando siano giunte al Muratori le trascrizioni del De Miro. Se questo iniziò davvero il lavoro nei tempi predetti, non dovettero certo tardare molto. Solo 5 brevi componimenti, per un totale di 39 versi, hanno come fonte o tra le fonti i codici della Vaticana. La segnatura di essi e, talvolta, i fogli contenenti carmi trascritti vengono indicati chiaramente. 3 poesie, compreso 1111, di cui a Milano il muratore aveva trovato solo la parafrasi, sono ricavate dal Vaticanus Graecus 482 del secolo XIV, V.A., una dal Vaticanus Graecus 480 del secolo XVI, V., ed una dal Palatinus Graecus 90, V.P., secoli XIII-XIV. A dispetto dei calorosi ringraziamenti che il muratore tributa al Demiro negli Anecdota Greca e, dalla stima, e della stima che, egli dimostra, che gli dimostra in altre occasioni, il confronto con i manoscritti cui sono attinti i carmi rivela nel bibliotecario della Vaticana una fretta eccessiva ed una conoscenza davvero poco scaltrita di paleografia greca. E così, abbreviate le desinenze, si accavallano in una sorta di climax ascendente. Nella prima delle 5 poesie, mutuata da Voix, abbiamo uno sbaglio di trascrizione in 16 versi, nell'ultima, desunta dal medesimo testimone, si raggiunge la ragguardevole media di almeno un errore per verso. Non fossero indicate segnature e foglio, penseremmo sicuramente ad un altro esemplare. Andiamo avanti. Nell'agosto del 99, il muratore entra in corrispondenza epistolare con Anton Maria Salvini, professore allo studio fiorentino. Una corrispondenza destinata a rivelarsi poi fittissima e feconda ed a lasciare larga traccia non solo negli Anecdota Greca. Già nel mese successivo il muratore ha modo di far cenno al Salvini del suo lavoro sul Nazianzeno, poi ha da lui notizie circa un manoscritto della Laurenziana con i Carmi di Gregorio e, pur credendo che sia lo stesso utilizzato dal Tollius per la sua edizione, lo prega di verificare se contiene i versi che aveva scoperto all'Ambrosiana. Il Salvini inizia qualche controllo sui manoscritti fiorentini. Si fanno intanto sempre più forti le pressioni del duca Rinaldo I d'Este perché il muratore torni a Modena come archivista e, sia pure controvoglia, egli si vedrà poi costretto a cedere. In un curriculum redatto da lui stesso in terza persona il 6 febbraio 1700 per Francesco Bergomi, residente del duca a Milano, scrive tra l'altro: ha trasportato dal greco in latino moltissimi versi di San Gregorio Nazianzeno finora inediti e contenuti in un prezioso codice di questa insigne libreria, come pure altre operette greche, le quali cose tutte non si potrebbero da lui illustrare secondo il bisogno e condurre a perfezione se non avesse davanti gli originali manoscritti. Anche dalle righe citate non traspare certo felicità di lasciare Milano e la biblioteca ambrosiana. Il trasferimento inevitabile a Modena e gli eventi bellici che travagliano la regione in questo periodo fanno sì che la progettata edizione degli Anecdota Greca subisca un lungo arresto. Il muratore scrive a Corrado Janning che essi saranno pubblicati ubi licebit per bella per tipografos, novembre 1701, e da Giovanni Boven dorme il mio Nazianzeno per cagione di questi movimenti strepitosi, ottobre 1702. Nel gennaio dell'anno successivo comunica al Boven e a Bernardo di Montfaucon di aver composto e dedicato a loro 2 disquisiziones che insieme ad una terza, dedicata a Giusto Fontanini, faranno da corollario negli Anecdota Greca all'edizione di Gregorio. Perché si registri una ripresa effettiva del lavoro dobbiamo attendere l'agosto del medesimo anno, quando il muratore si rivolge al Salvini per chiedergli di rivedere e correggere la sua fatica. Pur dichiarandosi convinto che il Tollius abbia avuto agio di confrontare il manoscritto di San Lorenzo e di copiare quel che gli piacque, chiede con una certa diplomazia al Salvini di comunicargli l'incipit dei componimenti presenti nel codice e, ricevutili, compie la sinesca fatica, sono parole sue, di raffrontarli con i versi già pubblicati. Gli inediti risultano molti, in quanto, come scriverà poi il muratore nella prefazio agli Anecdota Greca, il Tollius non li aveva potuti trascrivere per la fretta. Il codice in questione, del quale non è data la segnatura, è, senza ombra di dubbio, il Laurenziano Splutius 710 L del secolo XI, il testimone con la silloge più completa di Carmi di Gregorio. Ha tutte le poesie pubblicate dal muratore, tranne un breve epigramma di 3 versi. Con sicurezza il Salvini effettuò dei controlli anche sugli altri manoscritti fiorentini, ne parla esplicitamente nelle sue lettere, ma in essi non trovò poesie ancora inedite. Tra il novembre 1703 ed il febbraio successivo la corrispondenza tra il muratore ed il Salvini si infittisce notevolmente. I due arrivano a scambiarsi anche più di una lettera per settimana, ricorrendo spesso come tramite al marchese Orsi in Bologna. I carmi di Gregorio sono ovviamente l'argomento predominante, per non dire l'unico. Il Salvini invia, un po' per volta, il testo di tutti i componimenti inediti contenuti in Elle, di cui il Muratori non era in possesso o non aveva un testo sufficientemente chiaro. Viene ripetutamente consultato su problemi di testo e di traduzione latina, propone congetture, traduce a sua volta in latino alcuni versi e rivede tutto il lavoro. È senza dubbio l'aiuto più consistente avuto dal Muratori. A differenza di quanto accade per il De Miro, i ringraziamenti tributati al Salvini negli Anecdota Greca non risultano usurpati. Nell'inverno del 1704 il Muratori inizia a ricopiare il manoscritto della sua opera e a stendere la prefazione. Si preoccupa intanto di trovare un editore. Sfumata la possibilità di una pubblicazione presso la Stamperia Vaticana, passeranno ancora quasi 5 anni prima che il volume, grazie all'intervento del Cardinal Cordaro, sia edito, dopo contrattempi e ritardi di varia natura, presso la stamperia del Seminario di Padova. Ed ora uno sguardo all'opera di cui ho appena ricostruito la storia. Essa ci presenta una raccolta di 228 componimenti, non tutti riconducibili al genere epigrammatico. 18 di essi, poco più di un centinaio di versi su oltre 1300, erano già stati pubblicati da altri, per intero o parzialmente. La presenza di questi carmi già editi tra gli Anecdota si giustifica quasi sempre con il fatto che al Muratori, contro i suoi buoni propositi, non fu possibile prendere visione diretta né dell'edizione del Tollius né dell'Aldina, che presentava alcune poesie poi tralasciate nella Morelliana. In alcuni casi egli è consapevole di non proporre un inedito e spiega in noto i motivi che lo hanno indotto a tale scelta. A partire dall'Aldina, la cui storia vera, ben diversa da quella raccontata da Gerz, resta ancora da scrivere, le precedenti edizioni dei Carmi di Gregorio erano basate, in linea di massima, su uno o due manoscritti. Per gli Anecdota Greca viene compiuto, abbiamo visto come, un esame più o meno sistematico dei codici contenuti in 4 grandi biblioteche. Allo stato attuale delle ricerche si può inoltre affermare che quasi tutti gli esemplari utilizzati, in primo luogo AM ed L, risultano essere tra i testimoni fondamentali delle poesie del padre Cappadoce. Altra cosa da rilevare, almeno di passaggio, è l'uso, anche abbastanza metodico, dei repertori disponibili. Siamo infatti nel periodo in cui essi prolificano e si moltiplicano fino a costituire un aspetto caratterizzante dell'erudizione e della cultura. Si è detto come il Muratori abbia subito consultato le opere del Dupin e del Cave riguardo all'edizione del Tollius. Nella prefazione agli Anecdota Greca, tanto per citare ancora un paio di esempi, sempre sulla scorta di William Cave, propone una lista dei codici oxoniensi contenenti poesie inedite o presunte tali di Gregorio e fa riferimento al catalogo dei manoscritti della Biblioteca Imperiale Vindobonense redatto da Peter Lambeck su incarico di Leopoldo I per dare una notizia relativa all'attuale Vindobonensis Theologicus Grecus 43, fonte dell'edizione del Tollius. Nonostante tutto ciò, e a dispetto degli sforzi compiuti dal Muratori e da coloro che si trovarono a collaborare all'impresa, gli Anecdota Greca sono ben lontani dal costituire un'edizione accettabile anche per quei tempi, molto più attendibile, ad esempio, quella dei Carmine Arcana dello stesso Gregorio, curata dal Villius nel 1575. Collazioni non sempre esatte, solo in parte effettuate di persona, scelta spesso poco felice tra le lezioni offerte dai manoscritti, disinvoltura eccessiva nel proporre congetture non necessarie ed altro ancora, concorrono a determinare un testo troppe volte difforme da quello del Nazianzeno. Se per 184 dei 228 componimenti riportati gli Anecdota Greca hanno ormai valore puramente storico, essendo stati sostituiti dalle moderne edizioni dell'ottavo libro dell'Antologia Palatina, per gli altri 44, o per buona parte di essi, quella del Muratori, ripresa senza cambiamenti rilevanti dal Caillot, rappresenta purtroppo ancora adesso l'unica edizione. E in questi casi il rischio di leggere un testo che non è quello vero resta grande. Credo di aver dimostrato anni fa come un breve epigramma per I Gamu sia stato letteralmente stravolto e reso incomprensibile da 2 arbitrarie congetture, una del Salvini ed una del Muratori stesso. Vorrei ora chiudere questa disamina con un rapido sguardo ad altre tre poesie, sia per mettere in luce alcuni dei difetti più evidenti riscontrabili in Anecdota greca, sia per cercare di ricostruire il testo di questi componimenti. Iniziamo dal numero 195, Eis Eupomonem, poi 1238 nell'edizione del Caillot. In questo caso viene utilizzato solo AM, nonostante tra gli altri quattro testimoni oggi noti della poesia figuri anche L. O al Salvini sfuggì che il codice laurenziano conteneva il Carme, oppure tanto lui quanto il muratori ritennero che potesse andar bene così. Chi vive in prosperità nella scelleratezza sappia di andare incontro al castigo finale. Chi vive rettamente affronti le difficoltà terrene consapevole che da esse viene temperato come l'oro nel crogiuolo. È attraverso la lotta che si riporta la corona della vittoria. Questo in sintesi il discorso sviluppato da Gregorio nei primi sei versi, per i quali non si registrano problemi particolari. Due congetture proposte con cautela in nota dal muratori, ei per e ed es per tis al verso 5 risultano inutili. Al verso 6 dobbiamo comunque leggere aetleusas, come gli altri quattro codici, invece di aetlesas. Anche in AM la lezione è incerta. Il problema sta nel distico finale. Il testo edito sembra non presentare difficoltà e può essere tradotto nel modo seguente. Perciò non rallegrarti nell'animo se le cose ti vanno bene e non abbatterti nei travagli, sopportando ogni cosa con animo cristiano. In nota il muratori avverte però che AM non presenta Cristoforo Cradie, che è una sua congettura, ma Cristoforu Cradies. Così anche gli altri quattro testimoni, i quali però non hanno Feron come AM, ma Ferein, che è la lezione giusta. Dobbiamo quindi ricostruire il testo leggendo Cristoforu Panta Ferein Cradies e sostituendo con un punto la virgola dopo Campteo. Perciò non rallegrarti nell'animo se le cose ti vanno bene e non abbatterti nei travagli. È di un cuore cristiano sopportare ogni cosa. Rientra nelle caratteristiche di Gregorio chiudere i suoi componimenti con una sentenza. Senza andare troppo lontano si vede ad esempio la chiusa della poesia riportata subito dopo nel foglio che avete davanti. L'errore di AM e la mancata utilizzazione di L portano ad un cambiamento sensibile del testo di Gregorio. Da notare che il Caillot, pur riproponendo anche in questo caso pedissequamente l'edizione del muratori, avanza dubitante in nota la possibilità di correggere Feron in Ferei senza far riferimento ad alcun codice. Passiamo al secondo testo, che negli Anecdota greca è il componimento 205, epigramma 16 nell'edizione maurina. Esso fa parte di una serie di poesie in cui Gregorio polemizza contro una moda diffusa fin dagli inizi del cristianesimo e ancora al suo tempo fonte di numerose polemiche. La convivenza in castità, almeno dichiarata, di uomini e donne non uniti da matrimonio. Tema centrale del Carme è che coloro i quali praticano questo tipo di vita, se anche riescono davvero a mantenersi puri, forniscono un esempio che può portare altri a non vivere castamente ed un sicuro argomento di critica. Manoscritti utilizzati AM ed L. Le lezioni da rettificare sarebbero più d'una, ad esempio al verso 13 i due codici hanno floginen anziché flogen e non c'era proprio motivo di cambiare il testo. Ma vorrei soffermarmi solo sull'inizio del verso 9. Il muratori, che legge co, per motivi ben comprensibili di ordine metrico, propone in nota di emendare in cus kai. Il Caillot, sempre in nota e per le stesse ragioni, co-gar. Come qualcuno avrà già capito, si tratta invece di un errore di lettura sia da parte del muratori che da parte del Salvini. Co, nei manoscritti manca l'apostrofo, non è altro che la normale abbreviazione di Cristò. Il punto non va messo dopo Eterais al verso 8, ma dopo Cristò al verso 9, un enjambement come ai versi 10 e 12. Traduzione del passo, niente di impuro, certo, ti credo. Ma si spiana ad altri la strada per non vivere santamente con altre in Cristo. L'uomo è fango, anche se vive casto con chi è casta. La terza poesia sulla quale vorrei soffermarmi è la penultima edita negli Anecdota greca, la 227, 1125 nell'edizione maurina. Essa presenta problemi molto più complessi di quelli visti finora. Il muratori aveva forti dubbi riguardo al verso finale, in postremo versu et agre et liusis mihi suspecta sunte et manca. Tali dubbi furono poi estesi a tutto il Carme dal Caillot, il quale ritenne i sette versi un frammento privo dell'inizio e della fine di un componimento più lungo in cui le parabole, secondo Marco, non dovevano costituire l'unico tema. Personalmente sono invece propenso a credere che la poesia trattasse solo tale argomento e fosse in origine più breve di quanto lo è adesso nelle due edizioni citate. Il Carme, insieme ad altri di argomento biblico, un vero e proprio manualetto didascalico, è contenuto in oltre 30 manoscritti risalenti allo stesso archetipo, che possono essere ripartiti sulla base di vari elementi in tre famiglie. Una presenta tutti e sette i versi, una solo i primi sei, l'altra soltanto i primi quattro. Credo di aver ricostruito in altra sede l'ordine e la logica secondo cui Gregorio aveva disposto le poesie in questa raccolta catechetica. Non voglio ripetere adesso quanto ho già avuto modo di esporre. Ricorderò solo che la serie si chiudeva con quattro coppie di poesie, nell'ordine Miracoli secondo Matteo, Parabole secondo Matteo, Miracoli secondo Marco, Parabole secondo Marco, Miracoli secondo Luca, Parabole secondo Luca, Miracoli secondo Giovanni, Parabole secondo i quattro evangelisti. Il Carme di cui stiamo trattando, l'unico della raccolta rimasto ancora inedito ai tempi del Muratori, è il quarto degli otto appena elencati e contiene a versi 1-4 la lista completa, senza omissione alcuna, delle parabole di Cristo secondo Marco, almeno in base ai criteri di scelta adottati da Gregorio. I versi 5-7 non hanno niente a che fare con i quattro precedenti e costituiscono invece un evidente doppione dei tre versi iniziali della poesia dedicata ai miracoli secondo Luca, che nella raccolta originaria, poi stravolta nell'edizione a stampa, veniva subito dopo e che inizia nei manoscritti greci con i tre versi riportati da ultimo nella fotocopia distribuita. In una versione siriaca, sicuramente anteriore all'anno 805 e a giudizio di alcuni molto più antica, al posto dei primi due versi di quest'ultima poesia abbiamo invece i versi 5 e 6 del componimento edito dal Muratori. C'è stata, in altre parole, un'interpolazione. Stabilire quali siano i tre versi da espungere e quali tre da accogliere come genuini è un problema che, a questo punto, non riguarda più il Carme che ci interessa e che, ad ogni modo, ho già affrontato altrove. Non c'è quindi motivo di ritenere la poesia mutila del principio e della fine, in quanto esaurisce il tema indicato. Essa pone ancora un problema, quello del verso 3, Caiton zinzanion spermati sium fuea. La parabola della zizzania è narrata solo in Matteo 13-24 seguenti e regolarmente menzionata da Gregorio nel Carme relativo, verso 4, ma non è presente in Marco. Nella poesia che abbiamo davanti è dunque evidentemente fuori luogo. Si tratterebbe di un errore vero e proprio da parte del poeta e sarebbe l'unico in tutta la raccolta. I padri della Chiesa, citando a memoria, commettono spesso errori, attribuendo ad un libro della Bibbia un passo che si trova in un altro. Ma resta comunque difficile pensare che Gregorio, il quale nel comporre questi carmi deve probabilmente aver avuto davanti un testo dei Vangeli, per evitare omissioni e per rispettare l'ordine in cui sono narrati in ciascuno miracoli e parabole, sia potuto incorrere in una svista del genere, soprattutto in un'opera a chiaro fine didascalico. Si può inoltre notare che il verso è un pentametro e risulta estraneo pure metricamente al resto della poesia, che è in esametri. Se è vero che alcuni carmi di questa raccolta catechetica sono sicuramente polimetri, è altrettanto vero che tale polimetria non è mai indisciplinata come verrebbe ad essere in questo caso, ma ha sempre una propria funzione ed un proprio ordine che ritengo di aver recentemente messo in luce. Credo pertanto che si possa propendere per la tesi di questo verso. La disamina che ho proposto poggia su una conoscenza completa della tradizione manoscritta del Carme e della raccolta a cui appartiene e desidero esprimere ancora una volta la mia gratitudine al padre Ghirau dell'Istituto Agostiniano di Roma che mi ha permesso di prendere piena coscienza della già menzionata versione siriaca, di capitale importanza nell'economia di tale ricerca. Nessuno, io credo, può muovere nel caso specifico appunti al Muratori, che si vide trasmettere dal De Miro e dal Salvini la poesia completamente avulsa dal contesto originario. Fece ciò che poteva. Al verso 2, comunque, il punto va dopo Parbleden e non dopo Gaian. Ho iniziato il mio discorso ricordando le edizioni dei Carmi di Gregorio anteriori agli Anecdota Greca. Dopo il 1709 possiamo menzionare soltanto quella curata dal Caillot nel 1840, che riprende e compendia le precedenti, ed altre relative a singole poesie apparse negli ultimi decenni. L'edizione complessiva, desiderata già dal Villamoviz agli inizi del nostro secolo, è di là da venire ed ha bisogno di poggiare su fondamenta molto più solide di quelle gettate da chi dice di prepararla. Se infatti può accadere che un volume sulla tradizione manoscritta della Gedichte Gruppe 1, dove gli errori sono presenti in quantità industriale, sia preceduto da una benevola e interessata recensione in lingua francese, non può certo accadere che sia seguito da un'affidabile edizione critica. Bene, un'altra lezione molto succosa. Quando si parla di ecdotica e la parte, diciamo, più accetta per quello che deve essere il testo che noi dobbiamo avere sott'occhio e lavorare su questo. Adesso mi pare ci sarà la discussione. Il tempo è breve pure perché sono le 12:10. Se vogliamo prendere il pomeriggio sulla discussione, che abbiamo un po' di tempo. Ma sì. Bene, inutile che cosa facciamo, ci sono molti discorsi. Allora è come non fare la discussione. Tanto cominciamo. Cominciamo, se resta materia, il pomeriggio riprendiamo. Allora, chi interviene sulle tre relazioni di questa mattina? Nell'ordine, di scuola, poi Malaschini e Palla. Comunque, dica dove vuole intervenire, in quale relazione vuole intervenire, o meglio su quale. Chi interviene? Chi interviene? Ma io potrei intervenire per una cosa interessante che mi riguarda per quest'ultima. Sì, vabbè, ma vediamo un po' se si. Ah, va bene. È meglio anche perché siamo in famiglia. No, è meglio così. No, ho detto se diventa come una cosa mia. No, vediamo se c'è qualche altro e andiamo avanti. Poi su che interveniamo. Sì, incoraggiamo. Se c'è qualche altro che vuole intervenire, padre Spiegel, se ne andate. Vuole intervenire lei, professore? No, è una cosa molto semplice che però emerge e è interessante da quest'ultima relazione, e cioè il, credo, non so se mi sbaglio, allora il livello degli studi classici e soprattutto del greco era particolarmente basso proprio a Roma alla Biblioteca Vaticana, se è vero che addirittura non poté essere fatta l'edizione a Roma come era stata progettata. Questo credo che corrisponda un poco alla situazione degli studi classici in Italia, che erano molto meglio curati nell'Italia del Nord, Milano, Padova, che era un centro importantissimo di studi classici. E Roma, invece, a partire credo dalla seconda metà del Cinquecento, penso che tutto il Seicento non abbia prodotto niente di importante. Dalla seconda metà del Seicento, ecco, perché possiamo ricordare effettivamente da quando Allacci ha portato a Roma tutti i fondi palatini, poi dopo credo che non sia stato proseguito. Bisogna provarlo. È un'impressione che... No, infatti un problema che si ripresenta non solo per gli Anecdota Greca ma anche per altri lavori, cioè, leggendo l'epistolario del Muratori si notano le stesse difficoltà anche per altre cose, cioè in questo caso si rivolge soprattutto all'estero e lo dice chiaramente nelle lettere che in Italia non è possibile, ci sono dei problemi. A Padova, fra l'altro, il momento non era dei più felici, c'era un problema di guerra, no? Sì. C'era una guerra tra tedeschi, spagnoli, francesi. Cioè, quindi si rivolge a Roma, che lì sembra che sia possibile, poi invece non è così. In questo caso... Io sarei cauto perché nel 600 a Roma sono state. Alla fine, però. Del 600, nel 600 sarà verso 650, 660, è stato pubblicato San Giovanni di Sostoli, e quindi un po' sarei cauto. Sì, sì, ma forse senza dubbi sono pronto a questo suggerimento di cautela. Perché poi ci veniamo subito, come dire, un po'. Il muratore muove mari e monti per cercare di pubblicare lavoro, però viene sempre risposto picchio. Dove li pubblicare? Padova, quando è finita la guerra. Vabbè, ma non sta a Roma, non abbiamo. Era ben inserito a Roma. Cioè, i problemi tra muratori e Roma vennero fuori dopo gli Anecdota Greca, quando ci fu la disputa per Comacchio. Allora ebbe anche dei dissapori con lo Zaccagni e con altri, presero posizione, uno per il Papa, l'altro per il Duca di Modena, per forma. A quei tempi a Roma in Gulambri già ce ne sono. Sì, va bene, ma cioè, dico l'editoria proprio. Però per tutto il 600, per la capitale dell'editoria, artistica, starei un po' zitto. Tra l'altro, sì, anche che queste le collezioni di Roma siano state le peggiori, proprio il bibliotecario di Roma. 39 versi soli, insomma, non per questo caso sì, ma io starei molto più attento. Comunque, questa appunto è una mia idea, un'idea che mi è venuta fuori così. Sì, sì, beh, certo. Allora, tu hai cominciato, gli altri devono pure continuare. Chris Cuori. No, no, sugli altri. Io volevo un po' su Chris Cuori, me lo dico sempre un po' agli altri nostri amici, quando si parla o di dipendenze o reminiscenze, che di autori, che può essere Omero, che può essere altri autori in genere, stai molto attento, perché si tratta di espressioni che hanno alle volte carattere universale e che si trovano un po' anche dappertutto, e quindi si possono trovare in Omero, si possono trovare in Virgilio, in tanti altri. Quindi starei un po' attento, perché gli antichi avevano una invenzione molto curata, ecco, della dipendenza. È una mia supposizione, stiamo un po' attenti, ecco, perché sono espressioni che sono a carattere universale. E se troviamo alcune parole che sono comuni, è anche un caso, una coincidenza che non esorbita dal particolare al particolare. Perché noi abbiamo avuto una grossa letteratura, molti hanno vinto anche le cattedre sopra, questa dipendenza, questa parola qui, questa parola lì, e direi io di stare un po' attenti. Sì, lo mettiamo, però io metto sempre il dubbio quando si tratta di una recensione molto critica, che può essere anche una in mezzo proprio dell'autore, e che poi ci sia la coincidenza. In tutto il mondo ci sono coincidenze di espressioni, di parole, di immagini, e questo è che volevo un po' dire. È vero, si abusa molto, ecco. Sì, da un pezzo. C'è anche nel nostro linguaggio quotidiano, insomma, molte volte usiamo espressione di Dante, sì. Manzoni, quindi c'è, cioè, però diciamo così, quando si passa a livello letterario, insomma, il discorso viene un po' più, diviene molto essere più caldo. Perché, e d'altra parte, nei luoghi che ho indicato, sì, insomma, mi sono attenuto, diciamo, nel caso dell'orazione 32, lì è evidente la ripresa di Platone, anche perché ci sono gli articoli, gli studi di Moreschilitz, sì, qualche anno fa, che dico come, non solo qualche anno fa, anche recentemente, sì, ribadite, vero? L'introduzione dell'orazione 38, quanto Gregorio debba a Platone, insomma. Cioè, debba, insomma, fino a che punto, insomma, ma è una cultura che il suo linguaggio è impregnato, insomma, dalla. E si tratta molte volte di riprese che poi vedremo più avanti nell'età bizantina, di riprese che non sono semplicemente formali, insomma, oppure per un gusto erudito, delle riprese che caratterizzano un dibattito. Pensiamo a Pasello, cioè la ripresa di Platone caratterizza un dibattito, procura a Pasello una posizione critica nell'ambito della chiesa bizantina, insomma. Cioè, quando c'è, quando c'è una posizione precisa, sì. Cioè, nel caso per esempio dell'epigramma di quello lì dell'epigramma 30, cioè in cui io, sì, insomma, a un certo livello c'è una ripresa formale lì, insomma, che senz'altro, insomma, deriva da Eschilo. Cioè la madre in Eschilo il guerriero che grida boa paroctes potamies, in Gregorio è la madre, però si intende che la ripresa è formale. Questo è il buon metodo che io ho voluto seguire. La ripresa è formale, insomma, resta semplicemente a livello formale dell'immagine poetica, che non potevo fare altro, un poeta antico ha anche, insomma, una certa poesia, anche una certa poesia moderna, attinge a certe fonti, insomma. Sì, ma non è che io ricordo, per esempio, volevo semplicemente ricordare questo episodio. Ricordo in questo momento una poesia di Sabba a Firenze che inizia con un verso del Fosco, un po' modificato. Quindi lo ricrea, lo traspone in una nuova situazione che è quella sua personale. Però lì ho notato che se la ripresa è formale e viene da Eschilo, cioè la sostanza viene da Rachele, cioè viene dal vecchio, quindi c'è questo, ecco, c'è una, insomma, c'è questa novità. Lui come, insomma, un uomo che ha studiato alle scuole classiche a quel materiale a cui attinge, c'è una contaminazione, e poi diciamo, insomma, subentra, diciamo, la nuova realtà, che è quella cristiana, insomma, che si affianca, delle volte combatte, insomma, è giusto apposta, insomma, delle volte invece viene armonizzata in maniera eccellente. Insomma, è un po' il dissidio, forse, per esempio, sono anche in genere un po' per formazione, diciamo, sì, sì. Io sono, insomma, un cattolico, però c'è una formazione un po' laica, diciamo così, sul piano culturale, no? Cioè, a parlare di letteratura cristiana, qui darei un po' ragione a croce, insomma, è difficile, insomma, parlare proprio di una letteratura cristiana, insomma. Se avete ragione a croce voi, almeno. Insomma, non è Napoli. Cioè, insomma, parliamo di un, insomma, cioè, quindi è molto difficile, è vero, sì, staccare, insomma, e questo è un problema che poi vediamo che si ripercuote per tutta Bisanzio, insomma, non, no, ma si ripercuote per sempre. C'è tutta la letteratura bizantina, la letteratura cristiana, però, insomma, non. No, tu hai citato un verso di Ungaretti a proposito della Marte, no? Quella è una concezione universale. Ecco. Cioè, e allora starei attento. Ah no, ah, se era per il fatto. No, qui hanno suggerito, infatti non l'ho citato, oralmente, delle volte, sì, così parlando. Cioè, volevo dire che in Gregori, in questi epigrammi, non sappiamo se Ungaretti avesse letto o meno questi epigrammi, non lo so. Però Ungaretti conosceva, sappiamo, sì, che conosceva il greco, insomma, che non lo conosceva. Cioè, però diciamo così, insomma, in Gregorio, che per la prima volta, sì, che abbiamo altre madri nella storia della letteratura, insomma, prima di Gregorio. Però in Gregorio, che per la prima volta la madre assume una funzione particolare. È in Giovanni di Sosta. Però già, insomma, stiamo. Ma c'è un, tutta una tradizione. Cioè, quindi, io non mi fermerei su queste cose. Queste cose hanno un carattere universale e posso trovare tanto materiale. Sì, certo. Dire che Giovanni è il nostro zenzeno, in governo, andiamoci piano, se no noi faremo le dipendenze da tutti. Ah vabbè, certo, sono delle proposte, insomma, che poi proposte, già selezionate, perché naturalmente lì, insomma, si può costituire un richiamo, tutto. Come allora abbiamo detto, stiamo attenti, vanno provate, però qui si è molto abusato, parecchi anni fa, 20 anni, 30 anni fa, anche con Ronconi, Pellegrino poi e tanti altri, che cercavano le dipendenze, c'è un verso, anche l'amico Lazzaro mi dice sempre, stiamoci attenti, perché non è possibile trovare sempre la dipendenza. Sì, ma anche io, insomma, sono giunto a delle posizioni molto calde, insomma, in materia. Insomma, appunto, è un problema molto grave, certo, è molto, che, cioè, è importantissimo. Anche perché agiamo in una letteratura che è retorica, che ha dei modelli da cui non può prescindere, insomma, non, insomma, non per può. Modo di dire. Cioè, accettare un genere letterario è accettare anche un modello, insomma, non. Sì, però stiamo attenti che l'invenzio è nel genere letterario. Sì, insomma, certo. Ora, non so, l'epigramma, poniamo, di un nostro Gregorio Zanzini, non è l'epigramma di altri. Ah, certo. Quindi stiamo attenti, perché l'invenzio vero certo, e perciò io ho cercato, che già nel discorso sugli epigrammi, e qui mi riferisco senza polemica, senza polemica, al recente articolo anche della Consolina, insomma, resta un po' bloccato in se stesso. Cioè, perché in sostanza, sì, insomma, noi, cioè, diciamo, insomma, cioè, siamo alla ricerca della figura di Sara, perché ha interpretato Sara, penso, cioè, lì si tratta di ricostruire una poesia che, ha una, che nasce come retorica, che lui si inserisce in una tradizione che è quella lì. Ma una sua invenzione. Esatto, certo. Quindi se noi leggiamo tutto un intero libro degli epigrammi funebri, dell'antologia Polatini, non ci troviamo. Insomma, potremmo fare un apparato chilometrico a Gregorio di Nazianzo. Certo, certo. Insomma, però ecco, qui subentra, diciamo, il nuovo poeta, il poeta cristiano, che dà anche ad una ripresa, come potrà essere quella di Satiro, che senz'altro lui l'ha tutto presente, dà, diciamo, un particolare significato. Non si tratta più del lemon, del prato, ma dell'aloe. L'aloe è un termine molto vago, è la radura, l'orto, è usato variamente in Omero. Quindi, che porta a una dimensione poetica, direi. Insomma, mi perdoni ancora una volta un accostamento leopardiana proprio, cioè da un senso indeterminato, vago, insomma, a quella, appunto, però intanto c'è, insomma, la imitatio classica, sì, anche lì, classica di un altro, di un genere, diciamo, che fa parte delle mie, allora sì, sì, dell'ecfasis che dobbiamo fare, cioè, certo, non bisogna aggiungere, qui mi ricordo una frase del collega Albini, insomma, una volta, insomma, però questi bizantini, quando diciamo che anche Gregorio è un bizantino, cioè quando parlavano non è che citavano ogni momento, sì, però anche nel loro linguaggio quotidiano veniva a galla la loro scuola, la loro formazione, come d'altra parte nel nostro linguaggio, insomma, si distingue sempre l'origine. Diciamo. Allora, senza essere troppo chiacchierone, volevo solo dire una cosa nella bellissima relazione di Criscuolo, che ho ammirato per molti aspetti. Una cosa mi pare detta in modo molto giusto sulla poesia di Gregorio nei Carmi, che è forse un poco, non dico frammentario, ma sul momento, cioè allo spunto, e poi dopo 3-4 versi forse un poco si affloscia, sì, ho l'impressione che lui infatti le cose migliori sue sono forse le più brevi, insomma, le sue poesie, ma anche nei Lunghi Carmi l'immagine, l'intuizione va colta, sì, a tratti. In genere parte da una situazione che realmente noi chiamiamo poetica, dopo tante esperienze, sì, di secoli, insomma, sì, cioè esperienze che abbiamo noi, però loro non avevano. Cioè, quando noi parliamo di romanticismo, anche ieri mi sembra lei, giustamente, esistenzialismo, l'ho detto anche io, giustamente, però sono esperienze di noi moderni, cioè delle chiavi interpretative. Cioè, quindi il poeta antico, insomma, si pone sempre in una condizione di retore, cioè non ha altra strada, insomma, che... E beh, nel IV secolo, sappiamo, è diffuso il dibattito sulla poesia come... cioè sulla prosa come migliore della poesia, quindi più insomma Libani, l'orazione 11, discute anche su di questo problema, dalla seconda sofistica in poi, è già in Demostene, però a quell'epoca divenne un problema di fondo con la seconda sofistica, diciamo. No, perché dicevano, siccome la poesia ha degli schemi, è sempre fisso, sì, mentre la prosa è varia, è tutta l'armonia, sì, della prosa in quella varia, sì, è tutto un discorso che non finisce mai. Chi altro vuole intervenire? Ministri, tu non dici niente. Ecco, un attimo fuggente, un'altra ripresa poetica. Su questi andare, io dicevo, alle volte si può esagerare nel vedere questo solo, un richiamo, non perché non fossi d'accordo. Questo punto è, siccome mi dà noia quando molti finiscono mai, c'è il pellegrino, c'è le pagine intere, tutto questo, ad qui. Questo capita anche con Dante, no? Basta vedere gli apparati dello scartazzino, insomma, diviene un processo all'infinito, insomma. Sei tu, Corsare, che vuoi dire qualcosa? Sei tu che vuoi dire qualcosa? No. Niente. Allora possiamo. No, ecco, io volevo riferirmi e ne ho fatto, insomma, così, insomma, un riferimento al lavoro che veramente mi ha aiutato molto, diciamo, ed è un lavoro magistrale. Il lavoro sulla Bildungsbranche del professore insomma, ecco lì, insomma, abbiamo di fronte una miniera di dati, però di volta in volta c'è la dimostrazione di come questo recupero di dati venga fatto da Gregorio. Non è a caso la citazione dalla ripresa da Pindaro, volevo dire, insomma, in questo campo è stato un lavoro veramente magistrale di cui insomma non è perché è presente, ho detto, diamo ampio merito al professore Cash. Nessun altro interviene? E lei, monsignore, i suoi lavori, insomma, soprattutto gli ultimi sono molto molto. Allora, se interviene, ce la ringraziamo. Allora sì, hai visto che abbiamo avuto tempo. Benissimo. C'è un tempo per ogni cosa. Benissimo. Allora, oggi puntuali, per favore, alle 3. Anche alle 3:05. Ma meglio alle 3 perché ci sono due relazioni, qui c'è da fare un po' di conclusione, qualche cosa, quindi... Sì. No, io sono preciso. Benissimo, sì.